La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Amici, un saluto da Franco D'Assisti, eccoci di nuovo insieme come ogni weekend a parlare di cinema qui su Radio 24 alla Rosa Purpurea. È una puntata però molto particolare perché va in onda dalla Fiera del Libro di Torino, appuntamento ormai diventato imperdibile per tutti quelli che amano la letteratura, ma non solo, per tutti quelli che amano la cultura, con la C maiuscola o minuscola, non importa, o che rimangono affascinati dalle grandi storie. E proprio di storie cercheremo di parlare oggi, ovviamente non dimenticando la nostra vocazione ad informare sull'attualità cinematografica, quindi su tutti i film, non tantissimi peraltro, che arrivano nelle sale dei nostri cinema in questo fine settimana, non tantissimi perché c'è il Festival di Cannes, tra l'altro, a linea d'aria a 400 km più o meno da qui, quindi tutto sommato è un momento nel quale il cinema fa un po' il pieno di nuove idee per poi rilasciarle piano piano nei nostri cinema. Ma fra i film che arrivano e che sono arrivati proprio in questo weekend nelle nostre sale, ce ne sono almeno un paio che sono figli di grandi successi o comunque di libri che hanno avuto una critica molto favorevole, insomma grandi successi, dicevo, letterari, editoriali. E allora ecco che il tema di questa trasmissione prende corpo e diventa un po' il rapporto fra il libro e il film. Ancor meglio, come un libro diventa un film? Che caratteristiche deve avere? Quale linguaggio prende un genere dall'altro? Quale linguaggio la letteratura ha dato al cinema? E quale linguaggio il cinema invece ha dato alla letteratura? Perché anche di questa osmosi un po' al contrario, se vogliamo, dobbiamo parlare in questa puntata. E quindi analizzeremo le novità al cinema e parleremo anche di questi aspetti. Lo faremo con degli ospiti che stanno per raggiungerci qui in trasmissione, che sono ospiti molto graditi, anche molto impegnati in questa Fiera del Libro di Torino, ma anche particolarmente esemplificativi di due percorsi. Uno è Daniele Di Gennaro, il cofondatore della Minimum Fax, casa editrice che definirei cinematografica nella filosofia, prima ancora che nella produzione, che appunto partendo da un caso editoriale è diventato anche un caso di editoria cinematografica e di cinema con i documentari, e invece il percorso opposto, che è quello che ha fatto Domenico Procacci, uno dei massimi produttori di cinema in Italia, che invece partendo proprio dal cinema a un certo punto del suo percorso professionale ha sposato anche la letteratura con Fandango Libri e addirittura il caffè letterario come genere, diciamo così, dove tutti questi momenti di evasione e di cultura si trovano e trovano un loro modo di incontrarsi. Questo un po' sarà il senso di questa trasmissione, una trasmissione che chiaramente non può fare a meno dell'appoggio del pubblico, di quello che gira qui numerosissimo oggi in questo salone del Lingotto alla Fiera del Libro, ma anche di quello che ci segue con grande passione da casa. Io ricordo sempre l'indirizzo di posta elettronica, che è larosapurpurea@radio24.it. Come lo useremo oggi in maniera particolare, visto e considerato che Radio 24 in questa settimana ha lavorato attorno a un concetto, ha chiesto proprio qui dalla Fiera del Libro ai suoi ascoltatori di immaginarsi in un libro, di raccontare quale libro li ha particolarmente visti immedesimarsi, in quale personaggio di un libro si sono rivisti. Noi lo chiediamo chiaramente declinandolo cinematograficamente in un film. Quindi se io in un libro era la parola d'ordine di questa settimana di Radio 24, io in un film diventa la parola d'ordine della Rosa Purpurea, chiedendovi lo sforzo di raccontare come, perché, in quale film voi vi siete rivisti, e sceglieremo ovviamente i vostri racconti più simpatici, spiritosi e ben riusciti per regalarvi, come sempre, tanti DVD che sono DVD di grandi film tratti a loro volta da grandi libri. E quindi si andrà da L'amore ai tempi del colera al Diario di un curato di campagna, piuttosto che L'orologiaio di Saint Paul, che Tavernier tirò fuori da un grande romanzo di Semenon, al Nome della rosa. Insomma, avremo modo poi di parlarne nel corso della trasmissione. Quindi La Rosa Purpurea @radio24.it è un DVD game un po' particolare, quello di questa settimana. Cominciamo con l'attualità cinematografica e poi ci tufferemo appunto al racconto con i nostri ospiti. Uno dei film che arriva nelle sale italiane questo fine settimana si intitola Polvere. In realtà arriva soprattutto in alcuni cinema di Roma, ma avrà poi un percorso, come sempre più spesso faticosamente cercano di fare i film, i piccoli film italiani, i film indipendenti che non hanno una distribuzione forte alle spalle, allora cercano di guadagnarsi città per città. Polvere è un esperimento interessante, anche un po' figlio di una filosofia anche ad altri tempi, se vogliamo, cioè il film di denuncia sulla droga, però rivisto a livello di linguaggio, a livello anche di tematiche nel nostro tempo, quindi nel nostro 2009. Racconta di due ragazzi, due amici, Domini e Giona, profondamente diversi l'uno dall'altro, uno individualista chiuso alla ricerca di emozioni forti, l'altro invece scatenato, esaltato, viziato e che vive la vita al massimo. In comune cos'hanno? Un progetto ambizioso, quello di provare a realizzare un film documentario proprio sulla cocaina. E questo è un po' il tema appunto di questo Polvere, come potete dedurre facilmente anche dal titolo, che è un tentativo di ragionare e di riflettere su come questo aspetto, insomma, del consumo di cocaina, lo leggiamo spesso sui giornali, cocaina nell'aria, cocaina nei fiumi, cocaina nelle acque potabili, la troviamo dappertutto, sia qualcosa che permea molto il nostro presente, ma di cui si parla meno che un tempo. Allora noi cominciamo subito ascoltando un passaggio del trailer di Polvere. Ma guarda, io ho iniziato a 14 anni. Poi non ho mai smesso. Poi si aspetta! Migliaia di ragazzi che si sfondano con MDMA, Special K, Ecstasy, fumo, erba, LSD, funghi, shabu, mescalina, ma quella che spacca più di tutte la chiamano bianca, svelta, poffa, rosa, tiro, ricamo, ricamino, caffè, ammazza caffè, botta contro botta, sbranga, susta, frusta, riga, pista, striscia, bamba, lastra, polvere, danza, musica. In altre parole, cocaina. Quante ne abbiamo fregate? E queste le parole appunto che avete sentito del trailer di Polvere. Noi abbiamo ascoltato anche il commento di uno dei due registi, anche produttori del film, cioè Massimiliano De Piro, che racconta così questo fenomeno cocaina. Ascoltate. La droga, in questo caso la cocaina, è diventato il collante che unisce diversi ceti sociali, quindi non è più una droga considerata soltanto per ricchi, innanzitutto perché non costa più come costava una volta, e soprattutto perché si può dividere, nel senso che adesso un ragazzino di 17 anni può comprarsi un solo tiro di cocaina che costa 8 euro. E questa è la cosa devastante, come se fosse diventata pop. E questo è proprio il tema che vuole sviluppare questo film. Polvere, in alcuni cinema di Roma in questo fine settimana, ma poi pian piano dovrebbe trovare altri spazi per ragionare appunto su questo fenomeno. La Rosa Purpurea. Ed eccoci nuovamente insieme, Rosa Purpura che prosegue con un'altra proposta dalle sale cinematografiche di questo weekend. Ci hanno raggiunto intanto i nostri due ospiti, Daniele Di Gennaro, Minimum Fax e Domenico Procacci Fandango. Io chiedo loro di stare un attimo qui ad ascoltare insieme il racconto che Barbara Righini ha ricostruito di questo film, che è interpretato da Sam Rockwell, si intitola appunto Soffocare, tratto dal libro Choke di Chuck Palahniuk, dicevo un libro di culto che viene tradotto sul grande schermo con una, diciamo, sposando l'ironia di fondo che c'è nella letteratura di Chuck Palahniuk, la storia di un sessuomane molto particolare. Ascoltiamo Barbara Righini. Corrosivo e sorprendente, dopo Fight Club, film cult, un altro romanzo di Chuck Palahniuk, arriva sul grande schermo e Soffocare. Protagonista è Victor Mancini, un sex addicted. Ogni momento è buono per Victor per fare sesso nei posti più incredibili e solitamente con perfette sconosciute. E scusa, a che ora stacchi? Guarda che non sei obbligato. A fare che? A cercare di portarmi a letto. Ormai sono tutto un bollore. Per mantenere la madre in clinica, Victor ha studiato un metodo fantasioso. Il protagonista finge di soffocare e si lascia salvare da qualcuno che poi si sentirà in dovere di contribuire al suo mantenimento con regalini vari. Oltre alla truffa, Victor lavora in un villaggio americano del secolo scorso come comparsa. Vive e lavora col collega di dipendenza, Danny, con il quale condivide pene e tempo libero fino a quando non incontra Paige, dottoressa della madre. Allora il suo approccio alla vita cambia completamente. Non puoi farti amare con l'inganno. Vuoi vedere? Mi pare che tu riesca a fare sesso con chiunque tranne che con me. Evidentemente c'è una parte di te che non vuole che si riduca tutto alla solita botta e via. Forse è perché in realtà voglio prima darti il tempo di piacermi. Non sei quella merda che dici di essere. Sono una merda, sì, invece. Il tutto si complica con il ritrovamento di un diario scritto in italiano. Sono le memorie della mamma, un personaggio affascinante che ha passato la vita dentro e fuori dal carcere e dagli ospedali psichiatrici. Victor è deciso a scoprire chi sia suo padre. Il film, a tratti surreale e grottesco, è divertente, può contare sulle interpretazioni magnifiche di Sam Rockwell nel ruolo di Victor e di Angelica Houston in quello della madre. I momenti nei quali i due sono sullo schermo assieme sono infatti i più intensi. Palahniuk non tradisce, quindi Soffocare vanta una storia ricca di sorprese. Tutto il film poi può contare su un ritmo incalzante, dialoghi compresi. E questo quindi Soffocare con il grande, in questo caso almeno, Sam Rockwell, davvero azzeccatissimo nei panni di questo personaggio che lavora in una sorta di parco di rievocazioni storiche. Insomma, un film che è tutto un programma. Allora, buongiorno, buonasera, a seconda di chi ci sta ascoltando in diretta o nella replica, a Daniele Di Gennaro. Buonasera. E a Domenico Procacci. Buonasera. Che siede alla destra, non del padre in questo caso, ma del conduttore. Del conduttore. Allora, dicevamo in apertura di trasmissione, vogliamo provare così a raccontare un po' ai nostri ascoltatori come un libro diventa un film, perché diventa un film, quali sono le caratteristiche che un produttore, per esempio nel caso di Domenico, cerca dentro un libro. E come anche i due linguaggi si sono entrati in osmosi, si sono influenzati l'uno con l'altro, perché questo è sicuramente successo, soprattutto negli ultimi anni. Io voglio cominciare proprio da Daniele Di Gennaro, che nel 93, se non sbaglio, ha fondato la Minimum Fax, che era cominciata proprio come una casa editrice via fax, cioè c'è un motivo, insomma, una rivista, dietro questo nome. E poi ha sviluppato tutto un ragionamento, un lavoro su una narrativa soprattutto americana all'inizio, fatta di grandi dimenticati come Vonnegut, Carver, che è ovviamente il vostro autore simbolo, ma ci aggiungo anche Yates, da cui avete tratto recentemente, appunto, da cui è stato tratto recentemente il film Revolutionary Road, ma che voi avete pubblicato e ripubblicato in Italia. Ecco, allora, il vostro, io vi ho definito, presentandovi, una casa editrice cinematografica nella filosofia, non tanto nella produzione o non solo nella produzione. C'è molto dello sguardo del cinema nella vostra scelta di pubblicazione? Sicuramente, se non altro perché abbiamo cominciato a pubblicare scrittori contemporanei della narrativa angloamericana e italiana, e tutti si alimentano dalle arti visive, dal fumetto, dal cinema. Non sono figli solo della letteratura classica, come lo sono stati quelli che hanno in qualche modo vissuto quando il cinema non c'era, e quindi hanno creato un modo di scrivere per scene anche questi narratori, tanto che un editore oggi non può non seguire la trasformazione di tutti i linguaggi, deve avere uno strabismo virtuoso in cui l'urgenza e il sentimento comune del tempo forza i linguaggi, ne crea degli altri nell'architettura, nella grafica, nella musica, nella letteratura, nel teatro, quindi anche nel cinema, facendo così un atto di libertà, cioè non subire i canoni in maniera passiva, ma forzare un linguaggio per crearne un altro. Questo è liberatorio per chi lo fa e per chi fruisce di quell'arte. Quindi in questo caso i nostri autori hanno in qualche modo questa visionarietà e questa capacità di ritmo, soprattutto, certo, che da romanzo ottocentesco si è intensificato, come dalla sinfonia alla canzone di 3 minuti, cioè proprio il segno del tempo, questo fatto di ritmicità, quasi il tuo radiofonico, diciamo, e quindi c'è questa possibilità di osservarli, questa necessità anche di osservarli tutti i linguaggi, non possiamo permetterci di non farlo. Tra l'altro è successo anche che chi scrive, intanto, appunto, come dicevi, si è formato già alle arti visive, ma anche chi legge ha bisogno proprio di ricevere un ritmo che è quello che gli è consueto, perché è cresciuto su quello. Cosa pensi che abbia tolto e cosa pensi casomai che abbia aggiunto il cinema al modo di scrivere di molta letteratura, soprattutto americana, ma non solo, anche molto italiana recentemente? Ma innanzitutto un buon cinema con una buona letteratura è fatto anche dell'immaginazione di chi fruisce di quell'arte, quindi un romanzo oppure un film che in ogni caso sbatte fuori il fruitore dalla pagina o dal film, ovvero spiega troppo, in quel caso è in qualche modo saturante, non è un'opera d'arte efficace. In realtà il fruitore, l'immaginatore, il lettore deve in qualche modo integrare questa imperfezione virtuosa che è quella dell'opera d'arte più efficace, e quindi in qualche modo non si può prescindere dal vedere questi vasi comunicanti, tu parlavi osmosi prima, continui, che ci sono tra questi linguaggi. In questo caso sicuramente le nuove generazioni sempre di più sono figli di Tarantino, alcuni scrittori indubbiamente, tu parlavi di Palahniuk prima, ma sicuramente ce ne saranno una lunga serie che hanno il loro ritmo narrativo e il loro debito intellettuale con certi registi piuttosto che, ma anche con certi attori se vuoi, anche come profilo dei personaggi, c'è certo. Una visualità assolutamente certo. Figlia dei tic, dell'oralità di certi meravigliosi attori. Certo. Ecco, sicuramente uno che scriveva, magari non lo sapeva ancora, ma scriveva molto da cinema, diciamo così, era Peter Yates, perché Revolutionary Road è un libro... Richard Yates, scusami, che ho fatto un errore di certo. Carattere cinematografico. Certo. Fantastico. Richard Yates che in Revolutionary Road aveva proprio un ritmo che piano piano entrava dentro questa vita della provincia americana. Ecco, allora, prima di chiederti una riflessione su questo, ascoltiamo qualche secondo tratto proprio dal film Revolutionary Road, dove c'è una delle scene, a mio modo di vedere, guida è uno dei personaggi straordinari di quel film, che è questo fratello matto, insomma, ascoltiamo. Questa insalata russa è deliziosa, April, deve dirmi come la prepara. Lei è avvocato, Frank? No, non lo sono. Mi servirebbe un avvocato. John, non ricominciamo con la storia dell'avvocato. Papà, non puoi mangiarti tranquillo la tua fantastica insalata russa e piantarla di mettere becco? Vede, ho un sacco di domande da fare e sono disposto a pagare per le risposte. Ora, non occorre che mi dicano che un uomo che dà la caccia a sua madre con un tavolino da caffè si mette da solo in una posizione debole giuridicamente, questo è ovvio. John, guarda che vista da questa favolosa finestra panoramica. Se la colpisce con quello e la uccide, è da diritto penale. Oh, guardate, sta uscendo il sole. Se non fa altro che rompere il tavolino e rivolgerle un certo numero di insulti e lei decide di ricorrere al tribunale, è da diritto civile. Forse verrà l'arcobaleno. John, vieni a dare un'occhiata. Ma perché non fai un favore a tutti? Perché non chiudi quella bocca? E questo è lo straordinario monologo del matto, come è diventato. Daniele, dicevamo, una scrittura che ti fa vedere. Innanzitutto Yates sopravvive, perché non esplode la sua fama durante la sua vita, arriva molto tardi. E sopravvive facendo il ghostwriter per Kennedy e scrivendo per il cinema. Comunque lui già in qualche modo aveva osservato e sperimentato questa necessità di scrivere per scene, quindi il Revolutionary Road, l'adattamento che butta fuori tutta la vicenda della suburbia americana e stringe sulla coppia, chiaramente i due attori, necessariamente un romanzo deve buttare molte scene e tenere quelle chiave. Tra l'altro la sceneggiatura è stata molto efficace, penso, del film. In quel caso sì, sicuramente è già figlio di una consapevolezza rispetto a quel tipo di visualità e di scrittura per scene, tant'è vero che comunque vada di anche altri libri suoi si potrebbe pensare a tirar fuori qualcosa. Dice. Domenico, ti era piaciuto Revolutionary Road? L'avevi visto? Non l'ho visto. Non l'hai visto. Allora ti faccio la domanda di riserva. ti chiedo quello che, da cui siamo partiti. Tu hai fatto quello che è stato forse sotto un certo profilo il miracolo del cinema italiano dello scorso anno, cioè Gomorra, tirando fuori in questo caso un film da un libro che invece aveva gli artigli dentro la terra e dentro la realtà, faceva poco sognare ma molto palpitare, molto spaventare anche in un certo senso, perché raccontava la nostra storia. Cosa ci hai visto dentro di cinema? Cioè, perché sei andato lì? C'è stato solo dentro il discorso di un indubbio boom editoriale o dove le scorte, le stigmate di un film che poteva venire fuori in un certo modo? Ma lì dentro di cinema ce n'è tanto, non è soltanto perché anche Roberto Sappiano, nutrendosi di cinema, poi a volte finisce per scrivere per scene, no? come fanno molti scrittori, ma addirittura lì c'è un immaginario cinematografico di cui si nutre quel mondo lì. I camorristi, c'è una parte divertentissima, insomma, più o meno, del romanzo, del libro di Roberto Sappiano, dove si racconta che molti sparano appunto con la pistola in orizzontale, perché dai film di Tarantino si spara con la pistola in orizzontale, che comporta una mira meno precisa e quindi più una serie di problemi che ne conseguono. C'era già tanto cinema lì in quel romanzo. La rosa purpurea. Lo sai che la gente come me ha mandato in Europa sto paese in me? Lo sai quanto operai se sono salvato perché non faccio spendere un cazzo della loro azienda? È fermo, te guardo, qua. Capito? Capite? Dibbete, tutta gente che si salva se la mandi perché ci sta a mietti. Ho visto come li fai campare. Salvi un operaio a Mestre e uccidi una famiglia a Mondragone. E è così che funziona. Ma non l'ho deciso io. Noi arriviamo a risolvere problemi che hanno creato gli altri. Il cromo, l'amianto non l'ho creato io, le montagne non me sono mangiate io. Funziona così. Funziona così. E non funziona così. No? Io non sono come te. No. E come sì? Sono diverso. Ah sì? Vaffè e pizza. È diverso. Straordinario Tony Servillo in questo... Perché poi la cosa incredibile, Domenico Procacci, è che ascoltando il suo ragionamento, non dico che si finisce per essere d'accordo con lui, ma si capisce il punto di vista. Ah sì, assolutamente sì. Cioè è di una lucidità totale. Beh, è indiscutibile che molte fabbriche del nord, sapendo o fingendo di non sapere, hanno scelto delle strade molto poco chiare, perlomeno, per abbattere i loro costi nello smaltimento dei rifiuti. Questa è una realtà. È straordinario, perché poi il ragazzino invece idealista diventa un po', viene un po' stritolato, insomma, in questo meccanismo, fa un po' la figura poverino dell'ingenuo. Domenico Procacci, anche qui una storia straordinaria, qualcuno direbbe una storia italiana, no? Una storia straordinaria di passione, di amore per il cinema, di trovare le storie giuste, di metterle su celluloide. Alcuni titoli per chi ci ascolta: io ricordo sempre Bad Boy Babbi, un film che mi fece veramente una grande impressione, ma poi Radio Freccia, Respiro, Le conseguenze dell'amore, fino a Gomorra, appunto, di cui stavamo parlando, ma chissà quanti altri, ovviamente non possiamo citarli tutti. Hai fatto, dicevamo prima, un percorso inverso, almeno sotto il profilo, diciamo, della tua professionalità, che è totalmente cinematografica, ma che a un certo punto ha sposato anche con Fandango Libri la letteratura, addirittura il caffè letterario, no? Che sembrava un genere desueto, invece l'avete un po' rivitalizzato. Allora ti chiedo proprio questo, invece. Cioè, perché a un certo punto hai sentito il bisogno di fare anche libri? Ma non... l'attinenza col cinema è relativa. Ormai Fandango Libri esiste da 10 anni, quindi ha già avuto e avrà, spero, la sua vita. E la mia intenzione non è mai stata quella di creare una casa editrice perché si portassero sullo schermo dei romanzi pubblicati da noi o per arrivare a pubblicare poi le sceneggiature dei nostri film. Qualche volta è successo, ma non era questo il pensiero che c'era dietro. L'idea era quella di creare un'impresa nuova, ma vicina. Si tratta di raccontare storie con un mezzo o con un mezzo diverso, ma si tratta di raccontare storie. E in realtà in questo momento il lavoro che sta facendo la casa editrice è abbastanza vicino a tutto a quello che sono stati anche i primi anni invece della casa di produzione cinematografica, cioè il lavoro sui giovani registi, giovani autori, che all'inizio della tua attività non è nemmeno fino in fondo una scelta, no? è quasi l'unico modo di farlo, di fare. Sì. In questo campo, appunto, che è stato quello del talent scouting, se vogliamo, no? Cioè del tirare fuori qualcuno, ci sono, diciamo, casi, situazioni, film nei quali, come, ti complimenti con te stesso per quello che hai fatto? Cioè, c'è qualcosa che ti è rimasto un po' più appiccicato addosso? Bad Boy Babbi, che tu citavi prima, è un film a quale sono molto legato. E lì, insomma, non è che mi dica bravo, però non, era talmente lontano, perché era una sceneggiatura scritta appunto ad Adelaide in Australia, che mi era arrivata e che avevo letto, che mi aveva fatto venire voglia di andare lì, di conoscere colui che l'aveva scritta, e da lì è nato un film, e dopo di quel film ne abbiamo fatti altri con lo stesso regista addirittura. Insomma, l'Australia è diventata una terra nella quale ho fatto parecchie cose, abbiamo anche pubblicato parecchi libri australiani. quindi poi da lì insomma, c'è stata tutta una conseguenza in termini positivi di quel progetto, da quel progetto lì. E, forse Radio Freccia è stata una buona intuizione, una scommessa anche un po', no? Perché non tanti ci anche lì ci si partiva da un libro alla fine, un libro di racconti, Fuori dentro il borgo di Luciano Ligabue, che proprio qui a Torino è stato presentato un po' di anni fa e mi aveva incuriosito moltissimo questa presentazione qui a Torino di quel libro con Ligabue, che veniva qui in una veste diversa dalla sua, e da lì mi è venuta la curiosità di leggere quei racconti. E lì, per esempio, quando te prima dicevi che cosa ci si trova in un libro, in alcuni libri trovi una grande idea, in altri trovi un bel personaggio, in altri trovi un mondo, no? Un mondo che ti viene voglia di raccontare. E lì c'era nei vari racconti, nelle storie diverse l'una dall'altra, quindi nei tanti personaggi che popolavano quel libro, c'era proprio un mondo. E quel mondo era molto coerente anche con le canzoni di Gabue, conoscendolo anche con lui stesso. E quindi insomma, quella credo sia stata una buona intuizione. Quello è proprio un esempio di come a volte possa essere proprio un clima, un'emozione quasi, no? La cosa che si traspone da libro a film, che poi magari bisogna costruirci tutto il resto, però c'è quell'elemento che potrebbe essere l'elemento emotivo che lo spettatore cinematografico poi riceve. Allora, se quell'elemento c'è nel libro e si riesce a portarlo al cinema, poi sì, costruendogli attorno una struttura, provate a preservarlo, no? Tenerlo sì, molto anche da conto. Cambiando tanto, anche tradendo, come fatalmente bisogna poi spesso fare. Ecco, in Gomorra, per esempio, succede questo. Gomorra parte come progetto quando il libro non è ancora quello che poi è diventato, però ecco, la forza di Gomorra Film è quello di aver conservato il cuore e lo spirito del libro, avendolo però trasformato molto nel modo di raccontare quel libro, e forse anche la presenza di Roberto Saviano tra gli sceneggiatori ha contribuito a raggiungere questo risultato. Ci sono delle scene quando si parte da un libro con così tanta roba dentro, l'unica cosa che puoi fare è andare a togliere e togliere, no? E quindi putare. Decidi, scegli delle storie, racconti quelle. La cosa strana è che addirittura nel film ci sono delle cose che nel libro non ci sono. Allora, la prima scena del libro, la chiamo scena, mi sembrava imbattibile come inizio di film, della scena, la famosa i cinesi che cadono dai container, e mi dispiaceva che non si riuscisse ad averla quella scena nella sceneggiatura. Garrone lì ha inventato un'altra scena che è diventato praticamente il prologo del film, insomma, che è il solarium, gli abbronzati, esatto, che ha trovato lì, l'ha inventata lì, l'ha scoperta lì, perché lì ha conosciuto un mondo che aveva intuito leggendo il libro, che aveva conosciuto attraverso i racconti di Roberto Saviano, ma che poi ha dovuto conoscere passando dei mesi lì. E quella scena è perfettamente coerente ovviamente al film, ma anche al libro, non esiste nel libro. Insomma, a volte si crea, certo, un oggetto che è diverso ma che ha lo stesso, ma che tiene le stesse, sì, certo, le stesse caratteristiche emotive, insomma, sì. Daniele, invece un editore che a un certo punto, dicevamo, trova il documentario come altro modo di esprimere a volte i letterati e gli autori che pubblica, perché tu hai fatto tutto un lavoro su New York, per esempio, straordinario, e a volte invece altro. Quindi la domanda inversa che abbiamo fatto a Domenico, perché tu a un certo punto non ti sei fatto più bastare, diciamo, la carta, invece hai voluto il video? Ma fu un caso, un'intervista a Lars von Trier destinata a un libro, mandammo degli operatori, questo girato fu acquisito da Rai 3, noi pensammo che comunque vada, c'è una possibilità di creare risonanze con gli stessi contenuti. Poi sono passati anni che non abbiamo fatto nulla e abbiamo ragionato sul fatto che una ricerca fatta dal gruppo di ragionamento della casa editrice possa essere sviluppata con cura dei dettagli analoga, chiamando un bravo direttore della fotografia, un bravo regista, e creando comunque uno sviluppo possibile dello stesso lavoro. Questo significa innanzitutto per una casa editrice indipendente creare valore dallo stesso tipo di ricerca, quindi sì, noi siamo imprenditorialmente agganciati alla ricerca fatta dalle varie collane, perché i documentari sulla scrittura sono proprio la prosecuzione delle nostre collane sulla scrittura. I documentari di impegno civile, da Primavera in Kurdistan di Stefano Savona, oppure da tutto quello che, per esempio, Camilleri e Lucarelli che si incrociano in una partita a scacchi a quattro mani quasi. Ecco, tutte queste cose potrebbero stare tranquillamente dentro le nostre collane. Poi questi progetti si emancipano, ma seguono più o meno quel solco, e noi non possiamo non osservare questi linguaggi come comunicanti. E per noi è anche una ragione di gioco del maiale, come si dice, nel senso che il libro di poesia di Susan Vega diventa uno spettacolo teatrale che viene venduto ai teatri, quel girato diventa un DVD, un film, cioè, che se ne va per le televisioni straniere, italiane, e torna in libreria in un video. Ecco, hai sviluppato al meglio una cosa, una filiera, come dicono, che quelli, quando ha valore o quando comunque ha un minimo di densità e di senso, quindi aggiunge qualcosa al panorama preesistente, può guadagnarsi, se possibile, quando certo, possibile, altri linguaggi, altri vettori, che poi sono appunto una ragione di risonanza e di viralità poi dello stesso tipo di contenuto. Certo. Domenico, prima di dare la linea alla regia, so che tra l'altro nelle vostre produzioni che stanno in gestazione, adesso non so a che livello, anzi forse sono cominciate le riprese, c'è un altro libro che diventa un film, ovvero Lo spazio bianco della Parrella con Margherita Buia, che diventa un film. Ecco, anche lì, questa volta, tanto così, visto che siamo in anticipo stavolta, cosa ci puoi dire, cosa ci hai trovato? È un grandissimo personaggio. Ecco, quello è uno di quei casi in cui vedi un personaggio molto molto forte e anche una situazione molto molto forte, e le riprese sono già finite, stiamo montando, ci vorrà ancora qualche mese, però per quello che ho visto finora sono molto contento del film. L'ha diretto Francesca Comencini e appunto Margherita Bui l'ha interpretato, e vediamo, sì. Aspettiamo a Venezia, diciamo, no? Grosso modo, come tempi, da quello che dici ce lo aspetti, o più in là, chi lo sa, insomma. Benissimo, allora noi a questo punto salutiamo i nostri due ospiti, che ringraziamo per averci così aiutato, il tempo è volato alla grande, è aiutato a cercare di capire appunto come questi due mondi oggi convivano e cerchino di avere una strada comune, o comunque di intersecarla ogni tanto questa strada, perché sono linguaggi appunto che figli poi alla fine di due padri, di due madri diverse, che per oggi forse stanno generando qualcosa di unico, che è il nostro modo poi forse di leggere, di riflettere, di guardare, di vedere, di recepire. Forse si è tutto un po' mischiato, ma non è detto che sia un male. Grazie a Daniele Di Gennaro della Minimum Fax. Grazie a voi. E grazie a Domenico Procacci della Fandango. Grazie, buonasera. La Rosa Purpurea. Ed eccoci qui alla parte conclusiva di questa puntata speciale della Rosa Purpurea, dedicata appunto al rapporto fra cinema e libri, qui in diretta dalla Fiera del Libro di Torino. Ovviamente, come dicevamo, il tempo è volato, i nostri ospiti sono diventati due e quindi hanno avuto e ci hanno dato anche, insomma, una grande possibilità di capire meglio questo tema. I tempi si sono un po' ristretti, quindi c'è un film che esce questo fine settimana, di cui torneremo a parlare però settimana prossima, perché c'è dentro un beniamino del pubblico, soprattutto giovanile e soprattutto femminile, che è Zac Efron in questo 17 Again, che è nelle sale cinematografiche questo fine settimana, dicevo rimandato alla prossima puntata della Rosa Purpurea. Ma non possiamo non parlare ovviamente invece di Angeli e Demoni, che è nelle sale già da qualche giorno, esattamente dal mercoledì 13, se non ricordo, quindi si è già fatto qualche giorno di sala, l'ha fatto con risultati straordinari, il primo giorno più di 1 milione di euro di incasso, di mercoledì tra l'altro, quindi con i prezzi calmierati in molti cinema. Sta diventando un po' l'incasso monster di questa parte della stagione. Il film è un sequel sotto il profilo cinematografico, ma è un prequel sotto il profilo letterario, perché Dan Brown aveva scritto Angeli e Demoni 8 anni prima del Codice da Vinci. Arriva nelle sale dopo, invece, quindi pone un po' di problemi di adattamento, se vogliamo, a chi ha visto solo i film. Forse appunto si spiegano meglio alcune cose del primo film in questo secondo. Ecco, questa è un po' la cosa strana. È un film che ha anche un'ambizione diversa. Ron Howard lo dirige non con la velleità, diciamo anche simbolica, che forse aveva messo nel primo film, che riusciva anche un filino più cervellotico. Qui invece è una storia sostanzialmente, un film poliziesco di inseguimento di un assassino, di cercare di anticipare un assassino che sta colpendo in Vaticano mentre il Papa è morto, mentre c'è il conclave e mentre appunto la Chiesa Cattolica decide un po' le sue sorti e il suo futuro. Comincia questa serie di omicidi, guarda caso, ai danni dei quattro favoriti al trono papale, e quindi vengono rapiti questi quattro cardinali e eseguiti uno alla volta. Il Robert Langdon, professor Robert Langdon, cacciatore di segreti vaticani, interpretato da Tom Hanks, aiutato da un poliziotto italiano, l'ispettore Olivetti, interpretato da Pierfrancesco Favino, cercheranno di, attraverso la gestione, diciamo, anche di notizie e informazioni che affondano le radici negli archivi vaticani e negli scritti di Galileo Galilei, cercheranno di anticipare queste mosse. Allora, noi andiamo a ascoltare un attimo una clip di questo film, Angeli e Demoni, che ci aiuta poi a introdurre l'aspetto critico, insomma, di questa pellicola diretta da Ron Howard. Sentiamo. La battaglia è attualmente in corso, Eminenze. Ci dobbiamo difendere ed è giusto, ma se questa volta combattessimo i loro sotterfugi con la franchezza, se combattessimo la loro malvagità con la semplice verità e terminassimo una volta per tutte questa bestiale battaglia, se il mondo là fuori potesse vedere questa chiesa come la vedo io, guardando oltre i rituali di queste mura, potrebbe vedere un moderno miracolo. Una fratellanza di imperfette, semplici anime che non vogliono altro che dare voce alla compassione in un mondo che gira vorticosamente senza controllo. Ecco, avete sentito questo passaggio del trailer, l'aspetto della retorica, io non so se figlio ovviamente dell'adattamento in italiano o se presente, è probabile anche già nella versione originale, certo che l'aspetto dell'eccesso di retorica di alcuni dialoghi è uno delle zavorre di questo film, un'altra è una certa veramente grande sfida alla pazienza diciamo, e alla complicità del pubblico, perché alcune scene, che adesso ovviamente non vi stiamo a raccontare, insomma, sono veramente lontano dal verosimile, anche oltre quello che possiamo aspettarci e tollerare da un film che vuole essere un film di intrattenimento. Una su tutte, il nostro Camerlengo che appunto con le stigmate di una impressione a fuoco di un ferro sul rovente, sul petto, se ne va tranquillamente in giro correndo performante per le vie di Roma a cercare, insomma, di evitare il suo destino. Ecco, questo è un po' forse il limite, cioè un po' troppa massa su questo film, che forse poteva essere un po' più agile se un po' più misurato. Dicevamo, Pierfrancesco Favino fra i protagonisti di questo film, ormai attore italiano che nell'Olimpo americano si è guadagnato un suo posticino, molto spesso l'abbiamo visto chiamato, insomma, in causa anche da Spike Lee, per esempio, nel suo Miracolo a Sant'Anna. Interpreta l'ispettore Olivetti, un poliziotto che capisce dove sta la ragione e come cercare di servirla. Gli abbiamo chiesto come ha lavorato su questo personaggio e, per restare al tema che sta animando questa nostra puntata, se il fatto di dover recitare i panni di un personaggio già scritto su un libro e quindi che ha già una sua storia possa costituire un po' una gabbia per la sua libertà di interpretazione. Sentiamo. Allora, rispetto alla prima domanda, quello che mi piaceva era proprio l'idea di riuscire a creare un ponte, no? Essendo comunque un laico che lavora all'interno del Vaticano, era quello che probabilmente aveva più possibilità di capire entrambi i punti di vista, cioè quello del personaggio di Tom Hanks, che è Robert Langdon, protagonista del film ovviamente, e quello del Vaticano, che sono, insomma, due punti di vista completamente diversi sulle questioni che si vanno ad incontrare. Che quest'uomo qui, che interpreto io, avesse l'opportunità di capire entrambi i punti di vista mi sembrava un valore aggiunto, ed è quello su cui poi ho tentato di lavorare, oltre che un rapporto, come dire, di amicizia, avere anche la possibilità, sempre col personaggio di Tom Hanks, di vicinanza quantomeno, e avere anche la possibilità di non dipingere per forza il cliché dell'italiano, ecco, che questa è stata una cosa di cui sono stato particolarmente contento. Invece riguardo alla seconda domanda, generalmente io trovo sempre d'aiuto il fatto di avere un romanzo da cui è tratto viene tratto un film, perché insomma, molto spesso narrativamente vengono descritte le dinamiche anche di pensiero, vengono descritte in maniera molto approfondita quelle che sono appunto dinamiche emotive, interiori, i passaggi di ciò che accade. E di solito cerco di attenermi quanto più possibile, poi da lettore abbastanza famelico, insomma, mi ci trovo bene con l'oggetto libro. In più, ovviamente, fatalmente, come qualsiasi lettore, ho poi la mia libertà di interpretazione, per cui quando poi vado a fare qualcosa che riguarda un personaggio che comunque è all'interno di un libro, fatalmente interviene qualcosa che è la mia lettura personale di quello che vado a leggere. Senti, so che Dan Brown ha fatto un giretto sul set, che tipo è? Sì, più di uno. Ma in realtà ho avuto modo di parlarci più a fin finito che non durante, per ragioni di timidezza mia piuttosto che di sua riservatezza. A me sembra una persona che, insomma, attenta a ciò che gli succede intorno e anche attenta al fatto che, scrivendo delle cose che hanno un pubblico molto ampio, sa anche dove dover solleticare, che cosa dover solleticare per ottenere il successo che poi ha ottenuto con i suoi libri. Senti, l'idea che mi sono fatto è che un film come questo, al di là delle sue debolezze o dei suoi punti di forza, che come molti film, come molti colossal, ovviamente deve fare anche un po' di concessioni per andare incontro a un grande pubblico, ma l'idea che mi sono fatto è che un film così, questo più ancora che Il Codice da Vinci, lo si possa fare solo dall'estero, perché altrimenti in Italia pensare di lavorare con questo sguardo rispetto alla Chiesa è sempre abbastanza difficile. Invece in America riescono forse a metterlo anche in entertainment come noi non ci sogneremmo neanche di fare. Ma io infatti io credo che ci sia una base fondamentale, almeno nelle esperienze che io ho avuto modo di fare in questi ultimi anni nel cinema americano, l'importanza della storia, cioè del traino della storia e di ciò che accade dal punto di vista proprio del plot, è sicuramente molto più sottolineata di quanto non sia nel nostro cinema. Forse lo è anche appunto nella loro letteratura, per quanto sia possibile fare una generalizzazione. Sicuramente in questo tipo di letteratura c'è molto, tanto è vero che comunque, banalmente, vuoi sapere come va a finire. Magari entri meno in dinamiche, di profondità emotiva di alcuni personaggi. Però appunto è una generalizzazione abbastanza che ha poco luogo, perché ci sono scrittori americani che invece usano tutt'altro tipo di dinamiche. Credo che sicuramente la base dell'intrattenimento faccia parte di questo tipo di narrativa e di questo tipo di cinema. Era Pierfrancesco Favino alla Rosa Purpurea a parlare di Angeli e Demoni di Ron Howard nelle sale cinematografiche italiane da questo fine settimana. Non abbiamo più spazio, sta finendo il tempo, i DVD li rimandiamo a settimana prossima insieme anche appunto a 17 Again, ma è come si suol dire il bello della diretta. Noi vi ricordiamo ancora di scriverci alla Rosa Purpurea @radio24.it in quale film vi siete immedesimati di più. Io in un film potrebbe essere il tema, e settimana prossima elargiremo DVD di grandi film tratti da grandi libri. E allora non ci resta che salutarvi e ringraziare Filippo Reggi per aver curato la regia qui dalla Fiera del Libro di Torino. Appuntamento al prossimo fine settimana qui su Radio 24, il sabato alle 18, la domenica alle 9 del mattino con La Rosa Purpurea, il nostro settimanale di cinema. Un saluto da Franco D'Assisti.